Allora, il Festival Crudo quest'anno inizia il 10 aprile. Il titolo del tema del festival è Generare. Siamo alla terza edizione e Generare perché quest'anno Leggere Strutture inaugura un evento, nel senso che quest'anno abbiamo passato un bando del comune di Bologna per l'acquisizione e la gestione di uno spazio ex bocciofila di via Zanardi 230, che è uno spazio fantastico perché è uno spazio di 1000 metri quadri con tutta la parte esterna e intorno e anche una tensiostruttura esterna dove poi si potranno fare eventi e performance. E questo spazio vuole diventare un centro multidisciplinare, un punto di riferimento per la città di Bologna, quindi un centro artistico-culturale che ospiterà sia non solo la danza, ma anche la musica, il teatro, le stand-up comedy, quindi diventerà un posto, un polo multidisciplinare molto importante per il territorio. E siccome questo spazio però ha bisogno di lavori molto importanti, il festival si chiama Generare perché inaugureremo anche una campagna di crowdfunding che servirà per coprire i costi di ristrutturazione e i lavori all'interno di questo spazio che vuole aprire entro un anno. Quindi la prima serata, che sarà quella del 10, avrà come inizio il contributo anche di Valentino Corvino, che è un bravissimo violinista e anche direttore artistico, e lui interpreterà questo pezzo di 10 minuti con violino elettrico con delle proiezioni di sfondo. E ogni sera avremo il contributo di artisti molto importanti sul territorio, musicisti, che fanno questo contributo per dare visibilità anche sia al festival, ma anche per quanto riguarda la campagna di crowdfunding per l'apertura di questo nuovo spazio che si chiamerà Leggere Strutture Hub. Sì, vi ringrazio, vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito www.crudofestival.com. Grazie.